Olga faceva benissimo a meno della corvée gamella. Olga trovava molto comodo non aver più da lavare i camici di Stepan. Olga preferiva aspettare Stepan per cena piuttosto che fargli aspettare la cena. E a Olga piaceva più di ogni altra cosa aprire la porta alla sera a uno Stepan felice, disteso e pieno di storie. Storie della Copé, che poteva condividere con lei e Sonia e far condividere a Elia, spesso davanti a Zazà. Come per esempio quella di Pierre Richard Wilm e Federico Chopin. Mi darà lezioni di polacco per recitare Federico, aveva detto amabilmente l'attore alla fine di una prova. Questo non glielo consiglio, signor Wilm, perché con un accento come il mio, il suo Federico Chopin non sarebbe mai potuto uscire dallo shtetl per imparare il piano, aveva risposto Stepan ridendo. Lei è troppo modesto, signor Roginski, aveva allora mormorato la signorina Agnès, mentre Pierre Richard Wilm era scoppiato a ridere anche lui e aveva assestato una grande pacca sulla spalla di Stepan. Mi scusi, vecchio mio, ormai l'ho detta. Allora, Mazel Tov e Shalom, signor Roginski, a domani. Ed era uscito sotto lo sguardo ammirato della signorina Agnès, alla quale era aspettata la battuta conclusiva. È incredibile come se la cava già bene in polacco. Evidentemente, storie come quella Stepan non avrebbe mai potuto portarsele dalla Rue d'Aboukir, eppure assomigliavano a quelle che raccontava Khiri, ma Khiri le attingeva dal folklore. Stepan invece raccontava la vita vera. Era mille volte più divertente e Zazà dovette aspettare che le risate si calmassero un bel po' dopo la fine della storia per fare la domanda che le bruciava sulle labbra da quando aveva sentito pronunciare i nomi splendenti di Chopin e di Richard Wilms. Lei si era fermata a quelli, aveva smesso di ascoltare il seguito e trovava che le facevano perdere un tempo incredibile ridendo di cose che non avevano seguito. Di un po', papà, ce la farai avere una foto a me e a Josette? Finì per riuscire a dire in un relativo silenzio. Tenterò, aveva risposto Stepan, che aveva omesso di informarsi sul vero significato di quel autant pour moi, ossia ormai l'ho detta, preso letteralmente come è proprio con me, ma l'equivoco in Rue de la Mar non aveva danneggiato nessuno. Soprattutto non Pierre Richard Wilm, al quale Olga aveva trovato una vaga aria di famiglia con un parente della Galizia quando Stepan ebbe portato la foto a casa. Il costume da legionario non suscitò nessuna critica. Olga e Sonia si erano interessate al drappeggio del lungo fazzoletto bianco che faceva delle così belle pieghe. A Stepan e a Elia, invece, ricordava dei tizi che avevano conosciuto, degli individui non malvagi. Non violenti, a volte un tantino ubriachi, che a forza di aspettare dei documenti che non ricevevano mai, a forza di non capire niente di una lingua che non parlavano né capivano, a forza di solitudine e di nostalgia del loro paese, una sera avevano finito per andare ad arruolarsi nella legione degli stranieri. Non tutti avevano avuto la fortuna di loro due, ma per parlare della loro fortuna e della non fortuna di tutti gli altri aspettavano la mattina e la loro serietà la ritrovavano tra casa e la stazione République. Oppure aspettavano la domenica. Ma queste erano le volte in cui volevano veramente parlare. Parlare di loro, degli altri, della Francia e del mondo intero, ma soprattutto, ovviamente, di quella parte del mondo che conoscevano così bene, che avevano lasciato per la Francia che conoscevano così male. Eppure la Francia aveva fatto di loro dei francesi che avrebbero votato per la prima volta in vita loro. Attribuivano un grande valore al gesto che avrebbero dovuto compiere poche settimane dopo. Volevano che fosse benefico quel gesto per tutti coloro che li avevano adottati e che da 2 anni loro guardavano sfilare, mescolandosi tanto poco ai loro cortei, perché non erano né operai nelle fabbriche, né funzionari, né ex combattenti, né disoccupati, né militari e neanche iscritti al sindacato. E non erano mai stati defraudati né traditi per la semplice ragione che a loro non era mai stato promesso niente. Niente, in ogni caso, di quello che reclamavano le migliaia di persone che marciavano al suono di arie note che per loro erano ignote, su parole improvvisate che non sempre loro capivano. A tutta quella gente erano solo grati. Le loro due schede, apparentemente pur così leggere, avrebbero pesato nelle loro mani prima di cadere nell'urna, perché cariche del peso dei loro scrupoli e della loro riconoscenza, e anche del loro passato. Ovviamente riparlavano del loro passato, della Polonia, dell'Ucraina e di una volta e anche di oggi. A Stepan non piaceva parlare delle rare lettere che riceveva dalla Polonia, erano sempre terribilmente tristi. Federico Chopin era morto da quasi 100 anni, ma stando alle ultime notizie, nell'ex regno di Polonia si continuava a tremare altrettanto a essere ebrei. Non ne aveva mai potuto parlare con Janek durante tutti quegli anni a Femina Prestige. Aveva perso l'abitudine di discuterne con Olga, che se ne rattristava. Ne parlava solo con Elia, per quanto sempre meno spesso da quando le cose andavano così bene in viale Chateaubriand. Quanto alle ultime notizie dall'Ucraina, non erano né tristi né allegre, né buone né cattive, erano inesistenti. Non che il loro contenuto fosse banale, futile o vago, non esistevano. Perciò, ovviamente, Elia non poteva sapere se era vero che non si tremava assolutamente più a essere ebrei nella giovane Repubblica Sovietica d'Ucraina. Era stato vero agli inizi, ne aveva avuto la prova, ma erano passati 9 anni, perciò, ovviamente, una domenica avevano parlato di Valodia. Per riparlare di quella vecchia storia, ancora prima dei bagni docce, quella domenica erano risaliti per la Rue des Pyrénées verso Gambetta, per essere più tranquilli. Non era una conversazione per il caffè dell'Alverniata, ancora meno per casa. La sola persona del quartiere con la quale, o davanti alla quale, avrebbero potuto parlare di Valodia senza remore né ritegno era il signor Florian, ma il vecchio signor Florian la domenica non lo si vedeva nel quartiere. Anche se lo si era visto in passato disturbarsi di persona a venire a bussare alla porta dei Gutmann una domenica, era successo addirittura 2 volte, tutte e 2 le volte alla stessa ora, dopo pranzo, per non disturbare. Tutte e 2 le volte avevano mandato Maurice a giocare per la strada dopo averlo tranquillizzato. No, il suo maestro non era venuto per lamentarsi di lui, era venuto per parlare con mamma e papà di cose che non riguardavano i bambini. Come dire che tutto questo risaliva a molto tempo prima, giacché per parlare di Valodia bisognava ben riparlare di Simon Pietlura e di Samuel Schwarzbard, e quindi della seconda visita del signor Florian, quella del 1927, all'epoca del processo. Quando era venuto a bussare dai Gutmann quella domenica, il signor Florian non era venuto solo per parlare, era venuto a portare qualcosa. 2 cose, anzi. Prima di tutto, un ritaglio di giornale che tese a Elia. Elia glielo rese e chiese il permesso di andare a chiamare i suoi vicini, il signore e la signora Roginski, che di sicuro ne sarebbero stati interessati. Soprattutto se il signor Florian era tanto cortese da farne la lettura, sarebbe stato più facile per le signore che non leggevano i giornali. Di giornali, da quando era cominciato il processo, vale a dire da mercoledì precedente, Elia e Stepan ne avevano visti sfilare un bel po'. In Rue d'Aboukir ce li si strappava di mano, non si parlava d'altro, senza gridare per via del signor Jean, ma anche sottovoce, dato che tutti parlavano insieme, era difficile farsi un'idea. Anche dai fratelli Mercier ci se li strappava, ma per altre ragioni. Nel laboratorio non si parlava che di coste, di lebrì. Infatti, lo stesso giorno, e più o meno alla stessa ora, tenendo conto del fuso orario, mentre l'assassino Schwarzbard faceva il suo ingresso nella gabbia degli accusati, davanti alla corte d'assise del Dipartimento della Senna, i 2 assi dell'aeronautica francese navale atterravano trionfalmente sull'arida pista dell'aeroporto di Rio de Janeiro. Perciò, a parte il signor Paul, che aveva gratificato Elia di una gentile strizzatina d'occhio, ottimista e complice, i compagni pellettieri non si erano praticamente interessati alla sorte di Popoff. In compenso avevano insegnato tutto a Lilic, Suvedrin e Saint-Dumont. Elia tornò con Stepan e Olga. Sonia fece il tè, Zazà fu mandata con Maurice dai Clément. E il signor Florian, ritrovando il tono che aveva per il dettato, cominciò la lettura per un uditorio attento, oltre che rispettoso. L'articolo si intitolava Lo giuro. Per tutta la settimana La parte civile ha fatto sfilare davanti a noi un elegante stuolo di persone assai cortesi che sono venute a dirci in che stima tenessero il loro capo, che si ostinavano a chiamare il primo presidente della Repubblica d'Ucraina. E noi li abbiamo visti sfilare i guanti dalle loro mani bianche e curate per prestare il loro giuramento di falsi testimoni. Erano in 30. La settimana prossima vedremo quelli veri. Saranno 80 e loro ci diranno del vero Pietilura, capobanda, boia e assassino. E noi li guarderemo e li ascolteremo, questi sopravvissuti. Sono partiti dai quattro angoli della terra e sono appena arrivati per raccontarci gli orrori che hanno vissuto, per mostrarci le mutilazioni, le lesioni e le cicatrici che hanno lasciato sui loro corpi e nelle loro memorie. Ci parleranno delle loro morti, i cui cadaveri a migliaia hanno concimato le terre d'Ucraina e di Polonia. Non avranno il bell'aspetto, né la bella parlantina dei complici dell'assassino, dei loro fratelli, dei loro padri, delle loro sorelle, dei loro figli. Saranno stanchi perché vengono da molto lontano e tornano da frontiere ancora più lontane. Parleranno male la nostra lingua. Dovremo tendere l'orecchio, non avranno da sfilare il guanto dalla loro mano destra per dire io giuro, perché alcuni saranno monchi. Ma con le loro bocche maciullate sarà la verità quella che vi diranno. In verità ve lo giuro. Era firmato Le Bihan, cronista giudiziario, e il signor Florian spiegò che aveva ritagliato l'articolo in un bollettino settimanale che si chiamava L'Insti. Non si trovava in commercio, perciò l'aveva portato. Nella stanza da pranzo Gutmann tutti tacevano. I due uomini avevano capito quasi tutte le parole che il signor Florian aveva così ben pronunciato. Olga e Sonia avevano perso molto, ma avevano afferrato il numero di 80 sopravvissuti. Sonia stava per fare una domanda, timidamente, quando il signor Florian riprese la parola. «Non è tutto», disse. «Ho trovato anche questo che forse vi interesserà, signori Gutmann. L'ho ritagliato in un pessimo giornale, ma che importa?» E dal suo portafoglio tirò fuori una piccola fotografia intitolata I bolscevichi a Parigi, di cui il signor Florian lesse rapidamente la didascalia per sé solo. La difesa, non indietreggiando davanti a niente, fa viaggiare a sue spese dei cittadini sovietici ucraini che dalla settimana prossima voleranno in aiuto dell'assassino del presidente Pietilura. Colto dal nostro reporter ieri alla Gare de l'Est, ecco uno di essi. A giudicare dal suo sorriso, scommettiamo che il testimone Vladimir Gutman non ha sofferto del viaggio più di quanto abbia sofferto dei pogrom che evidentemente l'hanno lasciato in perfetta salute. A questo punto il signor Florian ripiegò con cura il titolo e la didascalia. Guardate, disse, e lentamente, quasi solennemente, depose il foglio sul tavolo davanti a Sonia e a Elia. Insieme si chinarono. E ciò che allora si udì non si chiama un grido. Non lanciarono il loro grido, lo aspirarono in un lungo gemito a due voci. E quando rialzarono la testa, nei loro sguardi si potevano leggere insieme lo spavento, l'incredulità e la più folle felicità. Sulla foto, nonostante lo sfregio che gli striava la metà del viso, Elia e Sonia avevano riconosciuto Valodia. Valodia, l'amico, il cugino, il quasi fratello. Colui che avevano creduto morto perché l'avevano visto morto a Gitomir durante il grande pogrom. L'ultimo, beh, l'ultimo nella vita di Sonia e di Elia Gutman. Il bello, il tenero Valodi era vivo, tanto vivo che sulla foto lo si vedeva tendere la mano verso l'obiettivo come per proteggersene. Probabilmente aveva fatto quel gesto troppo tardi e, dato che sorrideva, pareva semmai che si proteggesse dai raggi del sole di Parigi. E Sonia, in lacrime, si accasciò tra le braccia di Elia, che le dette dei colpetti sulla spalla, e guardò il signor Florian sorridendo e scuotendo il capo, come per scusare la moglie di lasciarsi andare davanti a un estraneo. Estraneo era, nonostante tutto, la parola che conveniva. Il signor Florian era commosso, non meno che imbarazzato, si sentiva un po' come il voyeur di uno spettacolo di cui era peraltro l'artefice. Si alzò. Adesso Sonia rideva tra le braccia di Elia e ripeteva «Valodia! Valodia!». E ora era Olga che si era messa a piangere silenziosamente con il viso tra le mani ed era Stepan che le dava dei colpetti sulla spalla dicendo «Lo so, lo so». E per scusare la moglie anche lui spiegò al signor Florian. Olga piangeva perché da loro, in Polonia, Non si rischiava ad avere la stessa fortuna. I morti erano proprio morti, non tornavano. Lo sapevano dalle lettere che avevano ricevuto. Valodia non ci poteva scrivere dal momento che lo si credeva morto, aveva allora ribattuto Sonia alzando le spalle, come quando si risponde a qualcuno che ha detto una grossa sciocchezza. E il signor Florian era stato sul punto di aggiungere a sua volta che i resuscitati non erano obbligati a fare i morti per essere all'altezza della loro reputazione di morti, ma si era tenuto per sé la sua osservazione, come si era tenuto per sé una domanda. Una domanda da straniero che non osava fare perché era troppo francese. Perché vi scrivono dalla Polonia e non dall'Ucraina? E se non l'aveva fatta era perché aveva una gran paura di conoscere già la risposta e non aveva nessuna voglia di farsela dire, come non aveva nessuna voglia di formularla a se stesso. Stava per andar via, ma tutti si agitarono. Come trovare Valodia di domenica in una Parigi che a loro quattro non era praticamente meno sconosciuta di quanto dovesse esserlo al Redivivo? Il signor Florian lasciò loro poca speranza per quella domenica, ma promise di informarsi. Aveva un'idea. Se funzionava, gliel'avrebbe fatto sapere da Maurice domani. Non da Maurice, signor Florian, per favore, aveva chiesto Sonia in tono leggermente supplichevole. D'accordo, non da Maurice. Vi manderò due righe, aveva convenuto il signor Florian. Semmai verrò all'uscita della scuola, aveva suggerito Sonia. Se vuole, signora Gutmann. Aveva detto il signor Florian, il quale aveva capito che Sonia non sapeva leggere. Aveva stretto le mani ed era uscito dalla stanza da pranzo. Elia lo aveva riaccompagnato fin giù. La via era deserta, si sentivano i bambini ridere nel vicolo cieco. Elia aveva preso la mano del signor Florian tra le sue mani, gli aveva detto grazie tre volte scuotendo il capo, poi gli aveva dato il numero di telefono di Mercier. Il signor Mercier era molto gentile, eventualmente lo avrebbe lasciato uscire prima dell'ora, casomai il signor Florian avesse avuto notizie di Valodia. Nel frattempo Sonia era andata con Olga nella stanza da pranzo di Roginski. Voleva far entrare Valodia nella cornice dei nostri ancora prima di averlo rivisto per davvero e soprattutto prima del ritorno dei bambini. In ottobre faceva buio presto. Non avrebbero tardato a venire a chiedere la merenda e Sonia non era pronta a rispondere alle loro domande. Spuntavano sempre fuori le domande quando si smontava la cornice dei nostri. Per una volta sarebbe stata una risposta viva. Domani Valodia stesso avrebbe raccontato, o meglio, avrebbe raccontato che era lo zio Valodia in visita a Parigi. Niente di più, bisognava vigilare. Domani? E perché non stasera, dopo tutto? Il signor Florian aveva detto che Parigi era troppo grande e che si era di domenica, ma dal momento che tra quelle migliaia di strade, tra quelle migliaia di case, dietro quei miliardi di porte, ce n'era una dove un uomo che si credeva morto in un'altra città era vivo in piena Parigi, era la prova che nella vita può succedere di tutto, perfino di domenica. E in Rue de la Mar si cominciò ad aspettare Valodia. Il difensore di Samuel Schwarzbard si chiamava Henri Torré. Elia non seppe mai l'audacia che era occorsa a un oscuro maestro di scuola per andare a disturbare a casa sua una domenica al calar della sera. L'avvocato più prestigioso e più richiesto di Francia in quel mese d'ottobre 1927. Eppure il signor Florian lo fece. Invece di tornare a casa, andò a consultare un elenco del telefono in un caffè della Rue des Pyrénées. Esitò un momento a chiamare, poi, disturbo per disturbo, decise che era meglio che si scomodasse lui. Henri Torré era un avvocato prestigioso per il suo talento, ma lo era anche per la sua generosità e il suo coraggio. Come tutti i coraggiosi, saprà riconoscere quello del signor Florian, che senza appuntamento, senza raccomandazioni, osava presentarsi in Avenue Hoche alla porta tanto celebre, il quale non disponeva che di una domenica alla settimana. Proprio come lo stesso signor Florian. Questi, è vero, aveva il giovedì in più, ma temeva che il giovedì fosse troppo lontano per ottenere l'informazione di cui aveva bisogno. In questi termini si era scusato e aveva spiegato, prima di varcare la porta, che l'avvocato Henri Torré aveva aperto di persona, indossando una veste da camera un po' sformata. Il signor Florian Non voleva essere preso per uno di quei mascalzoni che appena fatto il colpo e a volte addirittura proprio prima di farlo vengono a portare una caparra all'avvocato che hanno già incaricato della loro difesa nel caso in cui li dovessero acciuffare. Il signor Floriano aveva sentito parlare di queste cose, anche l'avvocato Arrito Re. Quelli non vengono da me, preferiscono certi colleghi. Entri, signore, aveva detto sorridendo e aveva trascinato il visitatore in un grande studio talmente ingombro che si camminava sugli incartamenti. L'aveva fatto sedere e lo ascoltò con attenzione. Sfortunatamente non poteva indicare l'indirizzo parigino del testimone Vladimir Gutman, disse dopo aver consultato una lunga lista di nomi delle sue scartoffie. Il testimone Gutman era ucraino d'Ucraina, non polacco. I polacchi di Polonia si sapeva dove trovarli a Parigi. Erano arrivati in gruppo con un rabbino ed erano alloggiati in un alberghetto della Rue Vieille du Temple che aveva fatto un prezzo speciale. Alcuni però avevano preferito farsi ospitare da parenti, il che complicava un po' le cose quando si volevano tutti nello stesso posto alla stessa ora. Con gli ucraini d'Ucraina non si avevano noie del genere. Arrivati in gruppo anche loro, senza rabbino, ma con due interpreti, mentre erano solo cinque testimoni, nessuno di loro aveva espresso il desiderio di fare banda a parte. Comunque, non si lasciavano mai e non sembrava avessero legami personali con chi che sia a Parigi. Non avevano neanche l'aria di volerne stabilire di nuovi gli altri ucraini testimoni venuti da altre parti. Da tutti i paesi d'Europa e d'America, dove i collaboratori della difesa erano andati a cercarli durante i 17 mesi dell'istruttoria. Quelli, gli ucraini delle altre parti, erano venuti separatamente, senza rabbino e senza interprete. Erano un po' imprevedibili nel rispetto degli orari, abitavano un po' dappertutto, ma si conoscevano il loro indirizzo. Ma per gli ucraini, come il signor Vladimir Gutman, non si sapeva niente. Erano a Parigi dal primo giorno, cioè dal martedì 18 ottobre. Avevano risposto all'appello con il loro nome, come gli altri, e da allora, puntualmente, tutti i giorni, arrivavano prima delle udienze. Restavano nella stanza dei testimoni, se ne riandavano dopo le udienze, non si lamentavano, come gli altri, di aspettare per niente, non chiedevano quando sarebbe toccato a loro. Non c'era bisogno di cercarli, erano sempre presenti. Quanto a sapere da dove li portassero, dove li riportassero, era peggio che andare di notte. Il più anziano degli interpreti, quello al quale venivano date le convocazioni, aveva parlato di una bella pensioncina in campagna che il giovane collaboratore dell'avvocato Torre aveva tradotto con villetta di periferia. Era a nord, a sud, a est o a ovest di Parigi. Impossibile saperlo. L'autista del piccolo autobus che li trasportava non parlava francese. Mi è stato difficilissimo ottenere che li lasciassero venire. Ho dovuto discutere per mesi. Ora sono qui, non mi metterò a bisticciare per sapere se dormono ad Argenteuil o a Bécon-le-Bruyère. Non riuscirò a ottenere per lei l'indirizzo, caro signore, perché non me lo daranno. Sono i sopravvissuti dei massacri di Berdichev, di Proskurov e di Jytomyr. Non vorrei essere responsabile della loro scomparsa in Seine-et-Oise. L'avvocato Arrito Re aveva detto queste cose con un triste umorismo. Era stanco, si vedeva. Il signor Florian si scusò nuovamente di essere andato a turbare il suo solo giorno di requie in mezzo alla battaglia che stava combattendo. Tutto questo per un semplice indirizzo. Non si scusi, signore, lei ha fatto benissimo a venire. Il mondo rigurgita di gente che non alzerebbe il mignolo per cercare di trovare l'indirizzo di un cugino che non è neanche il suo. Sono gli stessi che barricano la porta quando sentono gridare aiuto al piano di sotto. E sono gli stessi che preferiscono chiamare Schwarzbard l'assassino piuttosto che il giustiziere. Perciò, incontrare qualcuno come lei, dopo la settimana che abbiamo passato io e il mio cliente, e prima di quella che ci aspetta, lo trovo confortante. Mi auguro che si trovi qualcuno come lei tra i giurati, i quali vanno dicendo menzogne da martedì scorso e che dovranno pronunciarsi giovedì prossimo. Me lo auguro, per Samuel Schwarzbard, che rivendica l'onore di essersi reso colpevole a norma di legge. Me lo auguro per l'onore di noi tutti, che ne dica il mio collega Compinchy. E nonostante il legittimo dolore della sua cliente, La vedova della vittima, che è anche la vedova del solo vero assassino di questa storia di delitti di sangue. Dico delitti al plurale e parlo di fiumi di sangue, non della pozzanghera che per qualche ora ha macchiato il marciapiede di Rue Racine a Parigi. E il signor Florian non aveva mai sentito perorare una causa, era affascinato. L'avvocato Henri Torré se ne accorse. Non creda che stia provando la parte, caro signore. Mi sto indignando per me solo, e forse è grazie a questo che mi posso indignare davanti a tutti quanti, fece sorridendo. Probabilmente, disse il signor Florian, sorridendo a sua volta. Ma torniamo ai suoi amici e al mio testimone d'Ucraina. È possibile trovarla nel pomeriggio al telefono e a quale numero? La farò chiamare dal mio giovane collaboratore, forse avrà un'idea. Per favorire un incontro nelle vicinanze del palazzo. In teoria i miei poveri superstiti verranno a parlare davanti alla corte martedì o mercoledì al più tardi. Il signor Florian dette il numero della scuola. Precisò anche l'ora della ricreazione e quella dell'uscita, arrossendo leggermente come uno dei suoi scolari. Le prometto di non dimenticarla, disse l'avvocato Torré, riaccompagnandolo fino alla porta. Nemmeno io, avvocato, la dimenticherò mai, mormorò il signor Florian. Si stava avviando giù per le scale quando l'avvocato lo richiamò. Dica un po', gliene parla ai suoi bambini? Le fanno delle domande ai nipotini dei morti e delle morte? Il signor Florian risalì due gradini, fece cenno di no con la testa. I genitori non ci tengono a dividere con loro la memoria e me li affidano perché insegna ai loro figli la memoria e la storia della Francia. Beh, diciamo che se salviamo Samuel Schwarzbard, forse si sarà scritto un bel capitoletto della storia di Francia per il futuro. Ah sì, per i loro figli, ma io non ci sarò più per fare scuola, disse il signor Florian scendendo per davvero quella volta e facendo un cenno di saluto con la mano verso la porta che si richiudeva piano. Era evidente che era impossibile, che era pazzesco, però sarebbe stato fantastico se all'improvviso Valodi avesse bussato alla porta prima che finisse quella domenica. Sonia ci aveva vagamente creduto, fino a tarda sera, e Barschi aveva dovuto borbottare e tossire passando davanti alla porta perché lei smettesse di immaginarsi che quel passo lento ed esitante era forse quello di Valodi sperduto in una scala sconosciuta. Poi, andando a letto, ammise che in fin dei conti era meglio così, lasciava più tempo per organizzarsi, per preparare tutto, il mangiare, il bere, i fiori e perché no, il dormire. Forse gli sarebbe piaciuto dormire lì a Valodia, allora avrebbero messo Maurice nel letto grande tra loro due, oppure lo avrebbero messo nel letto pieghevole di Zazà, lei in un senso e lui nell'altro, e anche se Valodia non voleva dormire lì, si sarebbe dovuto spingere il letto pieghevole di Maurice nella camera perché potessero parlare tranquillamente nella stanza da pranzo tutta la notte se volevano. Comunque si sarebbe visto domani. Come per il materiale da rifinitrice, anche quello domani. Avrebbe messo la sua pezza con quella di Olga nella stanza da pranzo Roginski, perché la sua stanza da pranzo avesse l'aria di un vero salotto. Non doveva neanche dimenticare di mettere la cornice dei nostri sul suo caminetto. Valodia non avrebbe capito perché si teneva la sua foto dai vicini, anche se erano la loro famiglia di Francia. Nonostante tutto, non era la vera famiglia. Si comprerà anche una quiche Lorraine per fargli assaggiare la cucina francese. E poi non bisognava raccontare niente agli altri della casa, soprattutto non alla vecchia Loventhal e neppure ai Clément. Valodia non riguardava veramente che loro. Loro, i Roginski e il signor Florian, naturalmente. Prima di spegnere, Elia confessò però a Sonia che aveva scritto diverse lettere al paese e a Gitomir con il loro indirizzo di Parigi. Era strano che Valodia non avesse mai dato segno di vita. Sonia non rispose quello che aveva già risposto davanti al signor Florian. Disse che effettivamente era strano, ma che di sicuro Valodia stesso avrebbe spiegato tutto domani. Fu il mercoledì 26 ottobre, verso le 4:30 del pomeriggio, che il signor Paul Mercier venne a chiamare Elia nel laboratorio. Lo aspettavano al caffè-ristorante dei Tre Scalini in Place Dauphine, davanti al Palazzo di Giustizia, per una questione di famiglia, ci si trovasse tra le 5 e le 5:15, al più tardi e senza fallo. In Rue de la Mare non si era dovuto spingere il letto pieghevole di Maurice nella camera da letto. Il signor Florian aveva avvertito fin dal lunedì che per avere l'indirizzo le cose erano un po' complicate, che bisognava aspettare e essere pazienti. Allora aveva aspettato. E il lunedì era trascorso. Il martedì una delle tre rose rosse aveva già perso due petali. La mimosa di serra resisteva, ma era meno vellutata e una polverina dorata aureolava il vaso al centro della tavola della stanza da pranzo. La sera si era finito per mangiare la quiche nella cucina dei Roginski come dessert dopo cena, già che ormai era passato anche il martedì. Tornata a casa, Olga aveva pianto. Se Valodia non veniva, magari era semplicemente perché non li voleva vedere. Non li voleva vedere, come non aveva voluto scrivere, anche solo per dire che non aveva niente da dire. E Sonia interrogò Elia. C'era qualcosa di male che in passato potesse aver fatto o detto contro Valodia e che lui, Elia, avesse dimenticato, ma non Valodia. Elia le disse che era pazza, che era lei che perdeva la memoria. La vigilia del grande pogrom avevano mangiato insieme tutti e tre dal padre di Valodia, avevano riso per tutto il tempo, si erano lasciati abbracciandosi e dicendosi a domani. Sì, ma il giorno dopo noi siamo scappati. Forse è questo che non ci ha perdonato, di non essere morti con lui, aveva detto Sonia. Poi si era ripresa. Beh, di non essere mezzi morti come lui. La qualcosa fece sorridere Elia. No, la sua idea di Elia era che Valodia fosse soprattutto molto occupato. Un processo è come una guerra. È come sotto le armi. Per assentarsi ci vuole un permesso. I testimoni restano mobilitati finché la guerra non è finita. Quella stava terminando. Già tre uomini il giorno prima avevano parlato per Schwarzbard, l'aveva letto sul giornale. Domani sarebbe toccato a Valodia e a tutti gli altri, gli 80. Dopodiché Valodia sarebbe stato libero, libero di andare in giro dove voleva. Non sarebbe stato più mobilitato, avrebbe lasciato la caserma. E forse Schwarzbard la prigione. Elia si rese conto che da domenica era la prima volta che parlava di Schwarzbard con Sonia, o meglio, che parlava di Schwarzbard a Sonia, la quale non pensava che a Valodia. Mobilitato o no, non aveva trovato né il tempo né il modo di saltare il muro per venire a stringerli tra le braccia. Era tutto quello che vedeva lei. Non lo disse a Elia, ma il mercoledì mattina buttò i fiori appassiti nella pattumiera e sciolse i nodi della pezza nella sua stanza da pranzo. Come al solito, se Valodia si decideva, le avrebbe trovate come le avrebbe trovate. Lei e la sua stanza da pranzo, lei in camice da lavoro e la sua stanza da pranzo come laboratorio di sartoria camera dei bambini, tanto per fargli vedere che proprio non l'aspettavano più. Lo disse a Elia prima che uscisse. Elia le dette torto, pur pensando che comunque aveva un po' ragione, e lo disse a Stepan durante il tragitto. Stepan non sapeva bene che dire. Olga e lui avevano condiviso la sorpresa, l'attesa, cominciavano a condividere l'affronto. Ma malgrado tutto, non era loro che veniva fatto. In fin dei conti, quel Valodia non era il loro cugino. Si contentò di dire che lo trovava strano, nient'altro. Erano ancora in fondo agli scalini, a Strasbourg-Saint-Denis, quando sentirono la voce rauca di uno strillone. Colpo di scena al processo Schwarzbard. I testimoni d'Ucraina e di Polonia tornano a casa. Colpo di scena in piena corte d'assise. Elia e Stepan comprarono ciascuno una copia. Elia esse la sua per via prima di arrivare dai Mercier. Lo strillone aveva detto l'essenziale. Nell'articolo che prendeva le tre colonne centrali della prima pagina si spiegava che dopo la deposizione dei signori Goldstein, ex avvocato di Tolstoi, Siliosberg e Tiomkin, ex membri dell'assemblea ucraina sotto Kerensky, deposizioni che erano autentiche e requisitorie contro l'atamano Pietlura, la causa dell'accusato Schwarzbard era così bene avviata. La giuria aveva versato delle lacrime che l'avvocato Henri Torré aveva preso la decisione di rinunciare ai suoi 80 testimoni venuti dall'estero su sua personale richiesta. L'aveva annunciato all'aula del tribunale, designando la porta dietro la quale i sopravvissuti dell'inferno Pietlura aspettavano da giorni, nell'angoscia di dover rivivere il loro calvario per raccontarlo nel modo migliore e in quella di dover esibire le loro piaghe e le loro infermità per essere certi di essere creduti. Non aveva che una parola da dire per farli entrare, ma dopo quello che si era sentito dai tre testimoni che avevano parlato il giorno prima, si chiedeva ora se era proprio il caso di violare ancora una volta il pudore, il loro pudore, più quello dei giurati, dei magistrati e del pubblico, che sembravano ormai saturi d'orrore. L'avvocato Henri Torré ringraziava anche il procuratore generale Raynaud d'aver convocato come testimoni i signori Goldstein, Siliosberg e Tiomkin. Quei tre uomini d'onore non erano testimoni della difesa, ma dell'accusa. L'avvocato Henri Torré parlò allora di un altro testimone citato dalla parte civile e l'avvocato Campinchy dovette subire per la seconda volta la lettura della dichiarazione del colonnello ucraino Butakov, il quale la settimana prima aveva qualificato il pogrom di Proskurov, ordinato da Pietrura, come opera di ispirazione divina. Al collega Campinchy, l'avvocato chiese dunque di nuovo se desiderava veder comparire due dei beneficiari di quella ispirazione divina a cui aveva fatto appello il suo testimone Butakov. «Sono qui, a due passi, mio caro collega, due cittadini di Proskurov. Uno le farà vedere la sua unica gamba, l'altro non oserà farle vedere assolutamente niente. Fu evirato a Proskurov nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 1919». E il giornalista concludeva descrivendo l'insopportabile emozione provocata dal volo lirico dell'avvocato Henri Torré, talmente sicuro dei diritti del suo cliente da rinunciare agli 80 testimoni stranieri, che con tanta difficoltà era riuscito a ritrovare in tutto il mondo. L'articolo definiva l'avvenimento un colpo di scena, faceva balenare per l'indomani l'arringa più emozionante del secolo e la possibilità, ora del tutto prevedibile, dell'assoluzione pura e semplice di un assassino innalzato al rango di giustiziere. Di tutto questo, scritto con un lirismo che il giornalista voleva all'altezza di quello dell'avvocato Henri Torré, Elia non ritenne che una sola cosa. Valodia ripartiva.